La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, in diretta da una caldissima Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Come sempre, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E vi dice di che cosa parliamo oggi. Di una notizia che Repubblica oggi ha rilanciato ed è relativa all'utilizzo totalmente difforme della legge 104. Sapete, nel nostro ordinamento del welfare è la legge che consente ai lavoratori dipendenti di avere dei diritti rafforzati, compresi permessi e così via, per assistere parenti affetti da malattie. Ecco, e questo dato e l'utilizzo della legge 104 per ottenere trasferimenti, si chiamano interprovinciali, quindi rispetto alle assegnazioni degli insegnamenti della scuola elementare, presenta, oggi c'è l'articolo su Repubblica, delle divergenze territoriali così forti che non sono fisiologicamente comprensibili. Perché il nostro non è un paese che veda concentrati in una parte d'Italia dal punto di vista epidemiologico delle malattie croniche eccetera eccetera un tale divario come quello che si legge invece in questi dati. E allora ci siamo detti, pur non volendo fare, questo lo dichiaro dall'inizio, non c'è alcuna polemica antropologica, non è una questione di meridionali corrotti, lo dico dall'inizio per evitare ogni tipo di equivoco. Lungi da me, come lungi dai colleghi di Repubblica, lungi dai colleghi del Corriere, eccetera, eccetera. Però ci sono dei dati di fronte ai quali bisogna capire che cosa non funziona così profondamente da generare una realtà come quella descritta da questi dati. Adesso io ve ne riepilogo alcuni per farvi capire. Ripeto, le percentuali di insegnanti della scuola elementare che chiedono e ottengono un trasferimento facendo riferimento alla legge 104. Ecco, capiamoci bene. Un primo dato disaggregato, il sud rispetto al nord. Allora, al sud i trasferimenti richiesti e ottenuti con il riferimento alla legge 104 sono il 53%. Al nord il dato è sotto l'1%. Voi capite che siamo in presenza di una forbice che ci obbliga a ragionare e a dire che come diavolo può essere possibile, da che cosa dipende, dai criteri di accertamento, di verifica. Ecco, però 53%, 1%. Dopodiché in quel 53% media del pollo per tutto quello che riguarda il sud, ovviamente se uno va a vedere ulteriormente la disaggregazione per regioni, vede che ci sono parti d'Italia e parti del sud in cui la percentuale diventa ancora più elevante. La Calabria è quella con il record, cioè su 130 movimenti, assegnazioni diverse, richieste e assegnate di insegnamento, 100 su 130 si devono a questa agevolazione. Stiamo parlando del 77%. 77% rispetto a meno dell'1% della Lombardia e del Piemonte. In Friuli non ce n'è stato nemmeno uno in Friuli degli insegnanti che ha chiesto il trasferimento per questa ragione qua, nemmeno uno, e Calabria il 77%. In Sicilia siamo al 68%, in Campania siamo al 65%. E che cosa vi devo dire? Ci sono anche alcune province che arrivano al 92%. Ecco, io non voglio incrudelire, per così dire, non è una graduatoria nella quale io dico ecco la graduatoria della truffa, no. Però io mi metto nei panni di chi insegna alle scuole elementari nel resto d'Italia e dice, ma insomma, ma come diavolo è possibile? Ecco, io penso innanzitutto a loro, io non penso a noi che ascoltiamo da fuori e magari c'è qualcosa che ci sfugge, anche se come giornalisti ovviamente siamo obbligati a fare i pezzi, perché sulla legge 104, se andate a scorrere gli archivi dell'informazione italiana, tanto dell'ANSA quanto di tutte le testate, troverete una ricchissima letteratura accumulata sugli usi e gli abusi territoriali nel nostro paese della legge 104, innanzitutto pubblico verso privato, alcune categorie del pubblico rispetto ad altre categorie del pubblico. Ci sono stati dei casi in cui gli interventi sono poi sfociati di controllo, ci sono stati e sono sfociati anche in inchieste penali e in processi, e per esempio ad Agrigento, esattamente contro dei soggetti accusati di aver abusato della legge 104, quindi è scattata la truffa per avere indebiti trasferimenti d'ufficio, 70 imputati con richiesta di rinvio a giudizio da parte del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo ad Agrigento. Quindi non è che i controlli non ci siano, però evidentemente sono pochi, perché il fenomeno è di questa portata. Ma mi metto nei panni degli insegnanti. Ecco, e allora, fatta questa premessa per capire di che cosa stiamo parlando, cerchiamo adesso di capire da alcuni soggetti che lavorano nella scuola. Avremo poi con noi anche la segretaria regionale della CGL Sicilia, della scuola Grazia Maria Pistorino. Intanto è con noi una presenza a cui ricorriamo spesso per capire meglio tutti i fenomeni della scuola, cioè il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. Grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, questi dati a lei e nella sua esperienza che cosa dicono? A cosa si devono? Qual è il problema che sottolineano in termini di controlli mancati oppure di non controlli mancati? Ci faccia capire meglio. Allora, guardi, due osservazioni. La prima, come cittadino che ogni tanto si erudisce anche sui giornali e sui libri, che nel sud ci sia una minore diciamo così tendenza al controllo e quindi una manica più larga, questo penso sia un dato di fatto ormai acquisito. Basti pensare ai voti della maturità degli studenti del sud rispetto a quelli del nord, alle abilitazioni, all'avvocatura che anche quelli del nord spesso vanno a prendere al sud, andavano a prendere al sud e così via. Però il fatto in questo caso, bisogna essere molto precisi per non scadere magari ed essere accusati, esatto, di, no? Dio ce ne scampi e liberi, da parte dei sindacati, di demagogia, di antidemocrazia, chi più ne ha più ne metta. E il fatto è anche, diciamo, ha anche una sua base statistica. La maggior parte dei docenti che sono entrati in ruolo con la buona scuola, più di 100.000, 110.000 eccetera, cioè gli ex precari, sono moltissimi, in gran parte sono del sud. Quindi il precario che è entrato in Friuli, che magari Venezia Giulia, sono stato bacchettato da un vostro ascoltatore per aver detto solo Friuli, ma ha scritto una mail piena di improperi, insomma, per cui mi faccio un'auto da te. Friuli Venezia Giulia. Allora, l'insegnante del Friuli Venezia Giulia, ex precario, che è diventato di ruolo, che magari va ad Udine, vorrebbe andare a Trieste, non ha una grande necessità poi di ricorrere alla legge 104 sull'handicap appunto del genitore o chi per lui, mentre invece moltissimi precari, ex precari che sono entrati di ruolo con la buona scuola e che sono moltissimi del sud, sono ricorsi alla legge 104, sono ricorsi in maniera legittima, in maniera diciamo eticamente accettabile e così via. Questo non sta a me dirlo. Certo che normalmente noi sappiamo, e non è questo essere antimeridionalista, insomma, che nel sud sono molto più lasche le forme. Allora, lei parte da questa considerazione generale. Ci ha raggiunto nel frattempo, perché mi ero preoccupato perché mi dicevano che aveva il telefono staccato, ma stava semplicemente facendo un'altra telefonata di lavoro. Io la ringrazio di essersi resa disponibile. Ci ha raggiunto per telefono la segretaria regionale della Federazione dei Lavoratori appunto della scuola CGL Sicilia, Grazia Maria Pistorino, e io nel salutarla e ringraziarla vi leggo, cari ascoltatori, un comunicato che la CGL siciliana, proprio in occasione di un articolo che aveva scritto a gennaio del 2017, qualche mese fa, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, in cui si parlava esattamente del procedimento penale che era stato avviato con la richiesta di rinvio a giudizio per i furbetti della legge 104 ad Agrigento, i numeri a cui facevo riferimento prima. Ebbene, in quell'occasione la CGIL siciliana disse testualmente, lo voglio leggere prima ancora di dare la parola: la truffa delle false invalidità ad Agrigento per usufruire dei benefici della legge 104-92 impone un intervento affinché un diritto non si trasformi in un immotivato privilegio ai danni magari di chi ne sarebbe legittimo titolare. Chiediamo controlli a tappeto per verificare la regolarità delle pratiche. A me piacque molto questo comunicato della CGIL siciliana. Grazie a Grazia Maria Pistorino di essere con noi. Mi scusi se prima per parlare lei, però ho ricordato quel vostro comunicato. Allora, questi numeri così difformi del ricorso alla legge 104 per avere i trasferimenti agevolati nella scuola elementare, a voi che cosa dicono? Che riflessioni inducono? A noi sicuramente fanno evidenziare, diciamo, appunto questo massiccio esodo di docenti meridionali verso il nord, che hanno quindi l'esigenza di rientrare nelle regioni di origini. Il problema però è quello che si evidenziava anche attraverso il comunicato stampa, cioè quando qualcuno utilizza un diritto che è valido erga omnes, che è valido per tutti, a partire da quelli che hanno delle necessità importanti, perché io vorrei ricordare che la legge 104 è una legge di civiltà, assolutamente, è una legge importante, cioè, che tutela le persone con difficoltà, è una delle leggi più avanzate al mondo e che ci onoriamo di essere, diciamo, tra i pochissimi. Anche a perché a maggior ragione in un paese che poi agli anziani, a chi ha le malattie croniche eccetera eccetera, non è che il welfare gli garantisce l'assistenza a casa, quindi ha maggior ragione, non c'è dubbio. Esatto. Quindi è chiaro che questo abuso diventa evidentemente un danno per chi ne ha veramente diritto, chi ne ha un autentico diritto. Ci sono famiglie che non possono essere assistite, anziani, malati, gravi, perché vengono scavalcati da chi ne fa un utilizzo improprio. Ecco, ma quando... Che riflessione ci chiama? Sì, ma perché... No, ma per spiegare a chi è a casa e non lo sa, quando voi chiedete i controlli, i soggetti, per così dire, da controllare, che hanno un ruolo essenziale dal punto di vista procedurale perché la richiesta sia motivata una volta che le si inoltra, e cioè i soggetti che potrebbero in questo caso certificare una cosa per l'altra sull'esistenza di un parente che faccia scattare la fattispecie della 104 richiesta per un trasferimento, che soggetti sono? Ma sono principalmente coloro che stilano le certificazioni mediche, cioè non sono né l'amministrazione scolastica, né i sindacati, né i diretti interessati, ma chiaramente chi ha un malato a casa e presenta la richiesta di accertamento per la 104 si affida a dei professionisti che sono dei medici, cioè tutto un procedimento medico che deve attestare e controllare la validità di tutto il percorso. Questo vale naturalmente anche per chi è in malattia, ad esempio. Se io sono ammalato e mi fanno una decurtazione sul primo giorno di lavoro, questa cosa non può essere a danno di tutti, di quelli che sono davvero malati e quelli che hanno invece un medico compiacente. Pertanto le leggi devono essere applicate e devono essere verificate, perché quando sono leggi giuste tutelano chi è più debole. Io credo che questa cosa... Anche l'opinione pubblica in generale dovrebbe fare una facile riflessione su etichettature che vengono fatte per lo più sul pubblico dipendente, ma è evidente che insomma in qualche modo avremo bisogno di un'amministrazione in generale più seria che possa controllare chi fa delle affermazioni e delle certificazioni ed utilizza dei diritti che sono importanti per tutti. E ancora una cosa per spiegare a chi è a casa: in questo caso, perché lei ha detto essenzialmente il ruolo centrale della certificazione per un parente dell'insegnante malato è medico, I controlli a quel punto sulle certificazioni mediche che dovrebbero scattare, quelli che voi avete richiesto, come ho ricordato il comunicato, chi li dovrebbe fare? L'INPS o qualche altro pezzo dell'amministrazione pubblica? È in corso. Stiamo parlando di una specifica questione, quella era evidentemente, c'era un procedimento anche penale. Certo, non voglio generalizzare, però questi controlli maggiori da effettuare li dovrebbe fare l'INPS? Anche, cioè, sono gli enti erogatori delle certificazioni. Una cosa mi pare sicura, se ho capito bene. Le ASL, ecco, però una cosa mi pare chiara, però mi corregga se sbaglio. Sì. Non è l'amministrazione scolastica che ha i mezzi e le possibilità per farlo, assolutamente. No? Un dirigente o un amministratore di un ufficio scolastico regionale o provinciale non può intervenire su una certificazione che è medica, cioè deve prendere atto di quel certificato, ecco, prende atto e basta, ed applicarla. Non ha la possibilità di scegliere o di valutare. Ma questo però, ripeto, dobbiamo spiegarlo a chi a casa non è un esperto di amministrazioni pubbliche e magari ritiene che possa essere il dirigente scolastico regionale a dire: ma faccio io i controlli. Come li fa? Lei non ha poteri ordinamentali per fare questo tipo di controllo. Allora, abbiamo un minuto di informazioni di servizio sul traffico e poi torniamo con i nostri due ospiti e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori, con i nostri due ospiti, il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi Mario Rusconi e la segretaria regionale della FLCCGL Sicilia Grazia Maria Pistorino. Stiamo commentando questi dati che sono eclatanti, cioè in regioni del nord meno dell'1% dei trasferimenti nella scuola elementare chiesti e ottenuti facendo ricorso alla legge 104, in Friuli Venezia Giulia 0 addirittura, media del sud 53%, Calabria media 77%, in alcune province si arriva oltre il 90%. Allora la domanda che io faccio, e poi ne avrò un'altra di nuovo per Grazia Maria Pistorino, ma intanto la domanda che faccio a Mario Rusconi è se ci può confermare nella sua esperienza lunga di dirigente scolastico quello che ha dichiarato qualche settimana fa il presidente dell'associazione insegnanti in movimento, si chiama Domenico Navarra, e dichiarò testualmente questo: si potrebbe obiettare, parlavamo prima dei controlli, no? Si potrebbe obiettare che i docenti trasferiti saranno sottoposti e dovrebbero essere sottoposti maggiormente a una visita da parte dell'INPS, o quantomeno che l'INPS dovesse allungare i suoi strumenti ispettivi nei confronti dei medici. Vero, continuava a dire Domenico Navarra dopo questa promessa, però qualora venisse loro revocata la 104, quale sarebbe la conseguenza? Ve lo dico io: nessuna. In quanto sino ad ora nessuno degli insegnanti, come pure qualche volta avvenuto, a cui è stata revocata la 104, nessuno è stato mai rispedito nella regione di provenienza. E il provveditore di Agrigento, Raffaele Zarbo, confermava commentando: non c'è una norma che costringa a revocare il trasferimento ottenuto grazie alla precedenza suddetta ottenuta con la 104 nel caso in cui la stessa venga revocata dopo lo stesso trasferimento. Ma è veramente così, Mario Rusconi? Io devo, diciamo, dar credito a quello che ha detto il direttore di Agrigento. Vorrei però sperare che il nostro Parlamento, fra una comparsata come quella di ieri e, diciamo, la discussione sulla legge elettorale, trovasse anche lo spazio per interessarsi delle cose che riguardano direttamente la pelle, in questo caso la salute dei cittadini e, come diceva prima la collega della CGIL, soprattutto il rispetto dei diritti di chi non truffa lo Stato. Tenga conto che poi, se per caso appunto è stato prodotto un certificato falso in qualche modo, appunto non veritiero, io mi aspetto che l'ordine dei medici, che nessuno fino adesso ha chiamato in causa, io lo vorrei chiamare in causa, intervenisse pesantemente nei riguardi di quel medico compiacente, se esista, e soprattutto che ci fosse qualcuno che poi rinviasse tutto al tribunale penale, altrimenti, come si diceva anche prima, la persona seria, onesta, che magari vive a Catanzaro e che però ha avuto Sondrio, che che avrebbe tutto il diritto di ritornare a Catanzaro, verrà appunto scavalcata dal furbetto, in questo caso della provincia, insomma. Ecco, siamo un paese in cui evidentemente i controlli lasciano a desiderare, spesso sono manipolati, ma se abbiamo degli organi di garanzia, come dovrebbero essere pure gli ordini, perché questi organi non intervengono? Insomma, capisco che mi si faccia dire una frase volgare, che cane non morde cane, però, bisognerebbe fare in modo che... La prima funzione degli ordini è quella deontologica, in teoria. Appunto, dovrebbero essere i primi, tra l'altro perché dovrebbero tenere loro in modo particolare al buon nome, alla pregevolezza anche diffusa della categoria. Benissimo. Se questo non avviene è chiaramente un vulnus per lo stesso, per la stessa categoria dei medici. Grazie a Maria Pistorino. Per tentare di separare la grande questione degli assognati messi in ruolo a Nord in tre diverse selezioni, ma in numeri molto elevati dopo la buona scuola, la prima grande leva, il concorsone estivo con anche le tragedie delle bocciature a percentuali altissime, poi i nuovi disposti della Valeria Fedeli appena diventato ministro, per separare il fenomeno dei flussi dopo decenni passati a fare i precari altrove, dove le cattedre erano scoperte, cioè a Nord, e che vogliono rientrare. Aiuta quello che la Fedeli ha fatto appena diventato ministro, cioè in buona sostanza darvi ragione, dicendo facciamo saltare il tetto temporale che era stato previsto fino all'anno scorso, in cui non si poteva dire no alla prima accettazione una volta scattata la messa in ruolo. Ma con la Fedeli questo è saltato. Secondo voi è positivo? Serve a diminuire il numero, diciamo così, di trasferimenti che vengono mascherati attraverso il ricorso alla 104? Serve sicuramente a rimettere un po' d'ordine nel caos prodotto dalla legge 107, che ho grande difficoltà a chiamare buona scuola. Sicuramente tutta l'hanno chiamata la prima loro fase... così. L'hanno chiamata loro così, non io. Sì, ma infatti ogni volta mi viene proprio molto complicato esprimere, capisco, utilizzare questo aggettivo. Comunque io preferisco utilizzare la denominazione di formale legge, che è la legge 107. La legge 107 ha prodotto per due anni consecutivi, dalla prima fase del famoso algoritmo nazionale in cui le immissioni in ruolo erano obbligate su 100 province, al secondo anno, lo scorso anno, l'altro algoritmo ampiamente contestato e addirittura di cui abbiamo dovuto fare dei ricorsi come CGL, CISL, UIL e SNALS per poter per apprenderne a la natura famoso. No, è tutto verissimo, ne abbiamo parlato, siamo un paese singolare. No, sto dicendo che questa operazione dello sblocco del blocco triennale è un'operazione giustizia, diciamo, di colleghi che sono stati trattati male in due anni consecutivi e che quindi in qualche modo avevano diritto a rifare una procedura che li portasse il più vicino possibile a casa secondo modalità di punteggio, cioè secondo delle modalità oggettive, senza fare alcun riferimento a precedenza. Ecco, questa operazione della 104 inserisce un seme di precedenza, di parzialità, sì, è chiaro, procedura, è un accesso agevolato al trasferimento, è chiarissimo, è un accesso agevolato che però se fosse il più possibile attinente ai diritti reali delle persone sarebbe un atto ulteriore di perché giustizia. Altrimenti è una maniera per aggirare oltretutto il punteggio. Ecco, io come vedete senza nessuna forzatura, ecco, le voci di dentro della scuola, si capisce che qui c'è come intervenire. Caro legislatore, caro governo, fai qualcosa. Continuate sulla 24, appuntamento con me e i nomi miei compari dei conti da bere, domani alle 10:12, c'è un mucchio di roba sulle banche, sull'Italia, domani, di cui parlare, non mancate l'appuntamento.